Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. L'isolamento termico dell'edificio, ne abbiamo già in qualche modo parlato, è una condizione ovvia, beh, quanto decisiva per ottenere buoni livelli di risparmio energetico senza rinunciare al giusto comfort. Stasera cerchiamo allora di fare un po' di chiarezza sui vari tipi di isolanti esistenti, ce ne sono moltissimi, e sulle cautele anche che è necessario avere nella loro installazione. Ci facciamo aiutare in questo dal professor Gianfranco Cellai, docente di fisica tecnica ambientale e impianti alla Facoltà di Architettura di Firenze. Buonasera, Cellai. Buonasera a lei, Melis. Le faccio subito una domanda base, per così dire. Quando si può parlare di isolante? Allora, i materiali isolanti sono innanzitutto caratterizzati dalla leggerezza. Il loro funzionamento, infatti, avviene grazie alla presenza di celle d'aria nella matrice costitutiva non comunicanti tra loro, quindi in pratica immaginiamoci come se fossero un materiale formato da un formaggio tipo gruviera, certo. Dove ci sono all'interno dei vuoti riempiti d'aria. Il parametro che caratterizza le prestazioni degli isolanti è la cosiddetta conducibilità termica. Tanto più è bassa, ovviamente, tanto migliore è la prestazione. Proviamo a dare un'idea dell'unità di misura, facciamo questo tentativo. Senz'altro, allora si può parlare di un isolante termico quando la conducibilità non supera un valore di 0,05 watt su metro grado centigrado. Ovvero questa unità di misura rappresenta la potenza termica trasmessa attraverso un metro di spessore di quel materiale quando si verifica una differenza di temperatura di un grado centigrado sulle facce del materiale stesso. Benissimo, molto chiaro. Abbiamo detto sono moltissime le tipologie, anche perché ce n'è per tutte le applicazioni. Provi a farci un quadro. Direi che una prima grossa distinzione può essere fatta oggi tra materiali ottenuti da sostanze minerali o attraverso processi chimici rispetto a quelli aventi origine vegetale o animale e per questo detti ecologici. Certo. Molto spesso queste distinzioni sono più di carattere commerciali che non riferibili all'impatto ambientale prodotto dal materiale in esame. Un altro, diciamo, dal punto di vista della salute degli occupanti, delle persone, si può prendere in esame l'emissione di composti organici volatili che sono inquinanti, i cosiddetti VOC. Ad esempio i collanti di sostanze o le sostanze chimiche utilizzate per la produzione del componente, qualora fossero a diretto contatto con l'aria ambiente, possono appunto dare luogo all'emissione di queste sostanze che possono essere nocive. Ecco, che tipo di isolanti fanno uso di questi collanti, per esempio? Ci sono ad esempio delle fibre legnose oppure anche le fibre minerali che usavano, ora sempre meno a dire la verità, usavano appunto dei collanti di tipo chimico che potevano dar luogo a questa emissione. Per dare un'idea concreta, noi sappiamo quando si compra un mobile nuovo, sì, questo in legno, questo mobile a volte si sente ha un odore caratteristico, ecco, certo. L'emanazione di odori sono questi VOC e quindi ci sono oggi però in commercio colle cosiddette naturali che appunto hanno ridotto notevolmente queste problematiche. Ecco, senta, però provi a dirci proprio qualche tipologia. Per esempio io so che addirittura si utilizza la lana di pecora, credo, si utilizza il sughero, ci sono le vecchie. Tornando a quella grossa distinzione che dicevamo all'inizio, si può mettere nel primo filone, cioè le fibre minerali, e sono principalmente la lana di vetro e la lana di roccia, di origine appunto minerale ottenute portando fino a temperature di fusione miscele di sabbia, di vetro oppure appunto di rocce vulcaniche, consentono di ottenere i materiali che sono più largamente diffusi attualmente nell'edilizia. D'accordo. E con costi piuttosto contenuti. Ecco, queste dove vengono utilizzate? Per esempio queste è meglio che non siano esposte all'aria? Queste è bene che non siano esposte direttamente all'aria, specialmente la lana di vetro. Trattandosi di fibre è bene che non siano a contatto. Perché si staccano e possono essere respirate, insomma. Esatto. Tipicamente questi tipi di lane minerali vengono poste nelle intercapedini. Mentre le fibre, diciamo i materiali cosiddetti naturali, sono più adatti ad essere anche esposti all'aria, a essere a vista. Il sughero certamente può essere esposto. Certamente. O abbiamo la fibra di lino, la canapa, il kenafa, che è un'altra fibra vegetale, la canna palustre, il cocco, l'ajuta, la fibra di cellulosa, la lana di pecora. E vanno, insomma, tutti bene, funzionano. Direi che questi materiali hanno la loro, diciamo, differenza, potrebbe essere nel costo. Alcuni sono più costosi, altri meno costosi. Senta, l'isolamento poi è un'operazione che va fatta con una certa cautela. Per esempio, una delle cose che si fa, abbiamo parlato del famoso cappotto esterno, e questa è un'ottima soluzione. A volte si mettono su alcune pareti degli isolanti. Qui invece ci può essere qualche problema, bisogna stare attenti, vero? Senz'altro, posizionare all'interno l'isolante non sempre è consigliabile, perché si può incorrere nel rischio di formazione di condensa. Qui la situazione richiede sicuramente il ricorrere a un esperto. Senta, quali sono, abbiamo pochissimi secondi, i tempi tipici di payback di un intervento di coibentazione? I costi sono estremamente variabili. Beh, i tempi sono brevissimi, i tempi tipici sono di 4-5 anni mediamente. Grazie Cellai. Grazie a voi. Bene, ricordo che ormai esistono anche isolanti molto sottili, la cui installazione all'interno delle abitazioni sacrifica pochissimo spazio. Con questo chiudiamo. Domani Mr. Kilowatt torna per parlarvi di risparmio energetico nelle grandi infrastrutture distribuite, come per esempio quelle della telefonia. Buona serata a tutti.